Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Perdido nel corazón della grande Babilon. Me dice nel clandestino. Non posso rivelare qual è il piano B. Quello che le posso dire con grande serietà è che l'Europa, se non darà seguito alla propria responsabilità e solidarietà, si troverà di fronte un'Italia diversa, perché noi non siamo più disponibili ad accettare che ci sia un'Europa che invece di fare solidarietà fa egoismo e invece di prendersi per mano l'un paese con l'altro si prende a pugni. L'unico piano è quello di andare lì, fare i campi profughi e fermare le partenze, salvando vite umane ed evitando l'invasione dell'Italia. Non c'è un altro piano, l'unica cosa da fare è questa. Non so che cosa abbia in mente, ma se ha in mente qualcosa di diverso sarà probabilmente inefficace. Come vedete, già in stazione centrale, non c'è più degrado, quindi abbiamo fatto. Però il problema è che sono spostato di pochi metri, nel Lazio c'è una situazione di degrado terribile, bambini che dormono a terra, stamattina alle 7 sono arrivati. E allora li ospita lei, sai? Si è sentito male, ma Pisapia, il sindaco di Milano, a un certo punto alla giornalista di Sky che diceva: sì, ho capito, ma li avete spostati di qualche metro, ma li ospita lei a Sky? C'è questa massima adesso quando si parla dei clandestini, gli immigrati irregolari, i profughi, chiamateli, ognuno li chiama come voglia, tanto chiamateli come volete. È questa la massima, a me fa imbestialire. Perché non te ne prendi uno a casa tua? Mi fa imbestialire. Ieri ha dato una risposta, secondo me, straordinaria a Cecilia Strada. Cecilia Strada, presidente di Emergency, figlia di Gino Strada. Straordinaria risposta. Ma perché prendermi la casa? Pago le tasse. Non è che se mia zia si fa male mi faccio un ospedale in cucina. Pago le tasse e mando mia zia in ospedale, in cucina. Prima in cucina e poi in ospedale. Non è che se devo mandare mio figlio a scuola mi faccio l'asilo nel soggiorno. Pago le tasse e lo Stato fa l'asilo. E allora, perché mi devo prendere un clandestino o un immigrato irregolare o un profugo o un rifugiato politico a casa? Perché li voglio a casa. Pago le tasse e lo Stato non si comporti come il terzo mondo, come sta facendo in questo momento lo Stato italiano, con i bivacchi delle persone che pisciano per strada, o no? Però tutti fermi, c'è il piano B. Ieri Renzi ha fatto un'intervista al Corriere della Sera di 2 pagine dicendo che c'è il piano B. Se l'Europa non ci ascolta, c'è il piano B. Ora, che cosa sia questo piano B, come ha detto Alfano, non è data a sapere. Anche Alfano ha detto: non posso rivelare che cosa sia il piano B. Probabilmente non lo sa neanche lui, è tutto nella mente di Renzi. I giornali oggi raccontano che qualcosa c'è di idea del piano B, e cioè fare per esempio dei permessi temporanei a quelli che sono qui, in modo che possono passare la frontiera, non succedono più quelle cose come succedono in Francia dove li respingono, e possono circolare per tutta Europa, visto che molti se ne vogliono andare negli altri paesi, però non possono per la legge. Oppure avviare una trattativa con alcuni stati dell'Unione per un'operazione di polizia contro gli scafisti in Libia. Oppure fare accordi con alcuni paesi africani per rimandarglieli lì con i voli charter. Ma secondo Repubblica il piano B addirittura sarebbe una minaccia clamorosa. Renzi minaccia l'Europa di non pagare più le quote italiane, 6 miliardi di euro. Chissà qual è questo piano B. In ogni caso, le 6:32 minuti, questa è 24 mattino. Bentrovati, è il numero per i vostri messaggi, se volete il 349-238-6666. Tu, Carmelo Lauricella in regia, paghi le tasse? Sì. Allora puoi non prenderti un clandestino a casa, se no te lo mettevi nel soggiorno. Tu, Alessandro Longoni, che sei sveglio qui, non lo so, sacramente, Alessandro Longoni è lì che... tu paghi le tasse? Sì. Ha fatto una faccia un po' strana che interpreta come un sì, per non creare una problematica non indifferente qui a Radio 24. E quindi puoi non prenderti un profugo nella cantina. Allora, questa è 24 mattino, eh? Vogliamo aprire il Parlamento o vogliamo salutare i nostri... Adesso i nostri ospiti. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. A cominciare dal collaudatore di sbarre, colui che collauda le sbarre a Mediaset. Oggi credo però no, Prego. Cazzo Federico, ti butti sul sociale, però quando ti lanci vedi di non farti male. È il nostro Federico Novella. Buongiorno. Ma chi mi avete messo sotto? Fedez. Chi è Fedez, il tuo amico. Ma mi sta sulle balle, Fedez. No, dai. Ma perché? Perché ce l'ha con la polizia? Perché ce l'ha? Comunque oggi non collaudo le sbarre perché non dico che sono in ferie, ma il programma è finito. Sei in ferie? No, non sono in ferie, vado a lavorare. Ma non ti devi vergognare. Mi sono svegliato presto stavolta proprio per te, quindi è un gesto di grande affetto, di grandissima stima. Basta, non esagero, basta, mi fermo qua. Vabbè. L'importante è, ribadisci perché ti sei svegliato presto? No. Mi sono svegliato presto per te, Alessandro. No, ridillo per la terza volta. Mi sono svegliato presto per fare un gesto d'affetto nei tuoi confronti. Oh, perfetto. Poi sì, che ci sia. Non ti abituare a questi complimenti. No, però che ci sia qui anche la nostra. Così non va, Veronica. È una cosa così secondaria. Non c'è. Perché dobbiamo cominciare con un incidente diplomatico l'ennesimo? Veronica Gentili si è svegliato per me, Federico Novella. E anche per la sora Veronica, che saluto. Federico, cominciamo malissimo proprio, ma malissimo, eh. Anche guarda, per la sora Veronica, sì. Io non sono ancora sveglio, di fatto sto ancora dormendo. Ti sentiamo, ma infatti sei anche politically correct stamattina, siccome sei in semiferie già. No, Fedez, mi sta sul cavolo, che mi frega. Già così, esatto. Comunque tra poco Federico si sveglierà anche per te, Veronica, per essere con te. E invece per ora si sveglia per essere con noi di 24 mattino. Come è stato? Questa cosa non è bella comunque. Non è bella. Vabbè, facciamoci delle domande polemica. Soprattutto. Vabbè, noi non diamoci delle risposte soprattutto. Vabbè, Veronica Gentile è nostra pensatrice del fatto, è nostra ma è del fatto, però a noi piace così. Metà e metà. E allora, tra l'altro io non ho detto questa cosa che ieri su Twitter mi ha tirato molte simpatie, ma se io fossi francese mi comporterei come un francese, perché no. Ti ha attirato anche la mia di simpatia. Ah sì, mi hai insultato anche tu, non me ne sono accorto. Ero mi già andata a dormire perché ho pensato che in contumacia non fosse carino, quindi lo faccio adesso. Puoi dirmi ciò che pensi, dai, su. Beh, forza, cosa vuol... no, diccelo tu che vuol ma dire. Ma te lo dico io cosa vuol dire. Allora, i francesi hanno detto: l'accordo di Schengen non è sospeso, chiunque ha diritto secondo gli accordi di Schengen di passare può passare, solo che chi ha diritto? I cittadini europei, mentre gli immigrati irregolari secondo gli accordi di Chambéry tra Italia e Francia vengono respinti alla frontiera. Però vogliamo anche aggiungere che queste sono tutta una serie di supercazzole che ognuno sta utilizzando a suo favore a seconda di quello che gli fa più comodo. Purtroppo è così, perché hanno fatto un po' di furbetti. Ma sì, cioè il trattato di Chambéry lo utilizzano come para loro, cioè in questo momento effettivamente tu puoi rimpatriare chiunque non sia lì regolarmente o ci sia una prova, basta un biglietto ferroviario che venga dall'altro stato. No, però quindi, chiariamo una cosa, cioè gli accordi di Schengen valgono per il libero spostamento dei cittadini europei. E dei cittadini europei, cioè non è che arriva uno con tutto il rispetto dell'Eritrea e dice c'è Schengen. Ho capito, ma detto tu sei questo, dell'Eritrea. Non la vogliamo chiamare sospensione dei trattati di Schengen, ma è evidente che se tu fai una mossa di questo tipo in un momento come questo, che non vogliamo chiamare di emergenza, per carità, perché sennò cominciano subito a dare appalti anche, no, al primo che passa sotto casa e quindi ricominciano tutti i fenomeni alla mafia capitale, però in un momento come questo tu chiudi le frontiere e li lasci lì in quella situazione, il messaggio, ma insomma, non sono chiuse, chiaro. Cioè questo, io capisco che insomma non possono passare di là e non possono passare perché sono in questo momento sono in una situazione di irregolarità finché non si stabilisce se sono profughi, sono irregolari per la Francia. Perfetto, però è inutile che facciamo questo discorso in maniera strumentale quando vogliamo, perché lo stesso problema si pone sempre. Nel momento in cui tu decidi di diventare ortodosso e essere così fiscale alla dogana, stai facendo una scelta di natura politica rispetto a quella che è la posizione europea. Allora dai, Federico. Cos'è? È inutile che fai francese. Posso chiamarti Milan da oggi? Milan. Sì, ti prego, sì. Alessandro. Federico, di la tua. Veronica. Di la tua, tanto noi mettiamo l'inno, quindi c'ha ragione. No, c'ha ragione io, Federico, no? No, noi abbiamo fondato la nostra carissima Europa quando, di fatto, come adesso, quando nel 92 abbiamo aperto le frontiere. Se tutti chiudessero le frontiere adesso e applicassero alla lettera la loro interpretazione dei trattati, l'Europa non esisterebbe più. Non esisterebbe più. Allora i francesi hanno fatto i francesi, nel senso che hanno fatto un po' i furbi stavolta. Hanno fatto i francesi. Va bene, dai, risuoni l'inno. Inutile che... Metti la mano sul cuore. Se fossi in Francia farei il francese anch'io sostanzialmente. Jacuzzi in cui ammetti di essere una brutta persona. Sì. Io riassumerei così. Ma voglio dire, è pragmatismo. Cioè, perché un francese, un poliziotto francese dovrebbe far passare una persona che è giudicata in questo momento irregolare? Obbedisce alla prefettura lì francese, non è colpa loro. Ma la questione è la Francia che si, come dire, invece di basarsi sui suoi tradizionali concetti di fraternità, libertà, egalità, fraternità, tientelità, hanno fatto così stavolta. infatti devo dire che oggi il giorno mette proprio così la foto. Certo che è brutta questa foto di questi stranieri abbarbicati sugli scogli lì a Ventimiglia, no? E con la foto col titolo fraternità. Però, ripeto, Veronica, poi non è che non voglio insistere adesso di era una provocazione, sono francese. No, ma anche perché su questo argomento, veramente. Non ti convinco, lo so. Ma perché se c'è una regola, non so, hanno intervistato sul secolo XIX uno di questi a Ventimiglia che dice io voglio andare in Olanda, fatemi andare in Olanda. Perché uno dovrebbe farlo passare se è irregolare? Ma per andare, non in Francia, in Francia, in Austria, in Svizzera, la Svizzera, quelli si sa, sono anche un po' diversi, non sono nell'Unione Europea, perché dovrebbe farlo passare? Perché questa ipocrisia deve finire. Allora, vanno rivisti gli accordi, vanno rivisti i trattati e bisogna capire che tipo di politica fare a livello strategico, non soltanto a livello tattico, perché questo, e te lo dico veramente col cuore in mano, a cazzeggio a parte, è un fenomeno che non si arresterà in nessun senso. Ma va regolato, però nessuno lo vuole arrestare, ma bisogna regolarlo. Cioè, i flussi migratori, non arrivi tu, non arrivo io, non arriva la dogana a Ventimiglia, non arriva la polizia olandese, non li fermano perché preferiscono morire piuttosto che rimanere dove stanno. Se ci fossimo stati noi al posto della polizia francese, ci sarebbero stati fior di manifestanti, no Expo, gli amici di Veronica, insomma, che in Francia sui siti francesi non è neanche uscita questa cosa di Ventimiglia. Non è che sono preoccupati, non gliene frega niente. Ma forse l'unica che c'è stata è stata riprendetevi indietro, andatevene, manifestazioni xenofobe. Adesso c'è stato un grande dibattito in Francia su questo fatto. Ieri è successo anche a me su Twitter, siccome ho scritto questa cosa, subito una molto simpatica mi ha detto: ecco, tu stai con questi fascisti, ma che cavolo c'entra? Beh, cioè, non diciamo è che la tua frase è stata particolarmente infelice, ma di domenica noi eccola. È infelice. Poi era contento, secondo me pensavi anche che ti fosse venuta bene per quello che te la sei rigiocata, ma non era così. Ne sono convinto, voglio dire, non lo so. Se uno è regolare, passa. Se uno non è regolare, non passa. Si stabilisce che è regolare, passa. Ma non perfetto. Lo so, ma sono regole basilari. Tutti stanno già facendo i furbi. Il trattato di Dublino, capito, se ne parla, ma in realtà lo stanno ovviando tutti. Le impronte digitali non le prende nessuno, perché finché io so che nel momento in cui lasciano le impronte digitali poi devono rimanere in Italia, non gliele faccio lasciare. E inizio a farli defluire verso su, se arrivano a Lampedusa o giù in Sicilia. Iniziano a salire verso su e poi devo capire un po' come smistarli, ma L'Italia spera di farli uscire dai loro confini affinché prendano altrove le impronte digitali. Questo sì. è un cane che si morde la coda, certo. In cui nessuno rispetta nessun trattato. Ma voglio dire, mettiti nei panni dei francesi adesso, per un attimo. Ti rimetto l'inno se vuoi, se ti senti un po' più francese. Ti ringrazio. Comunque li sento già maleodoranti. Allora adesso, cioè, se c'è un accordo di Dublino che impone che il paese dove arrivano devono stare, cioè non è colpa dei francesi, ma loro dicono: ma ci sono delle regole, È colpa del governo francese e di tutti gli altri governi d'Europa che di fatto stanno utilizzando l'Italia come bivacco di questo continente. Su questo non c'è dubbio. Allora, su questo non c'è dubbio. Allora, su questo, al di là delle ironie che uno fa sul povero Alfano, che sappiamo bene che lo prendiamo sempre in giro a ragion veduta. E perché lo prendi in giro tu? Dai, per favore, non entriamo in questo argomento così. E che t'ha fatto Alfano? No, a me personalmente nulla, così, cosa ha fatto a se stesso. Però andiamo avanti. Per favore. Detto questo, non approfondisco. Nel caso specifico, senza entrare nei cavilli della politica italiana, cioè, ieri lui ha questo famoso piano B su cui ironizziamo tanto. Sì, sì. Io spero che in sintesi, no, dicevi, non paghiamo la nostra quota per l'immigrazione, sospendiamo il trattato di Dublino. Ma io lo auspico che queste cose vengano fatte, perché l'Europa si sta comportando come Maroni. Offesa peggiore non potevo farla. No? Eccola, l'Europa come Maroni. Come se da noi si dicesse adesso gli immigrati se li gestisce solo la Sicilia, perché sbarcano in Sicilia, sai com'è? Esatto, ma più o meno è quello che si sta facendo. Vabbè, ho capito, non siete abbastanza francesi, questo, però vi siete l'importante è che vi siate ricomposti, vi siete ritrovati. Gli inglesi siano meglio, infatti. I francesi ci stanno vicino, hanno chiuso la frontiera. Ma anche lì, uno degli altri piani B, pare, di Renzi, è le navi che prendono i migranti, li soccorrono in mare, non devono più portarli in Italia, ma li devono portare nei loro paesi. Ma queste cose andavano messe prima sul tavolo quando è stato fatto un vertice in Europa ed è stato deciso diversamente. Non è che adesso il piano B, gli inglesi hanno detto: noi li salviamo, ma ve li portiamo da voi. E noi abbiamo detto: va bene, adesso ci siamo accorti che non va più bene. I diversamente trattati. Ecco. Io fossi Renzi andrei in Europa e direi: non ci prendete i profughi e noi sforiamo il patto di stabilità. Questo è sacrosanto. Così vedrai che si svegliano. Quando gli tocchi i soldi in Europa. Ma io sono il primo a ironizzare sulla solidale Europa. Però da questo punto di vista, i francesi, risparmiamoci la cronistoria. Però insomma, nasceva come un progetto ambizioso quello europeo. Altiero Spinelli, Rossi, no? Tutti quanti lì a filosofeggiare su quello che doveva essere un progetto unitario di un continente compatto. Invece, siamo qui a farci la guerriglia gli uni con gli altri su una questione come questa che Ma è unitario quando si deve decidere sulla lunghezza dei cetrioli, come si sa. Però questa volta veramente basta, anche perché appunto uno scherza sul non fare di nuovo il discorso dell'emergenza, perché tutti gli appalti di Mafia Centrale sono stati dati così, ma di fatto un'emergenza c'è ed è oggettiva. Ma è io tra l'altro Roma, io tra l'altro ho detto: sono francese, se fossi francese farei come i francesi, come se fossi austriaco farei come gli austriaci. Cioè no, ma non è, non rinnegare, ma già, non è, quindi sei un trapponista così al primo basta che tocchi, te ne fate a te, ma no, sì, ma oggi che sei greco, dai. Cioè è inutile che mi date del cattivo, è per dire che i problemi visti dal punto di vista dove uno li vive sono diversi dal punto di vista dell'Austria, dal punto di vista della Francia, stanno facendo appunto tutto in regola, voglio dire, non mica voglio dire che sono cattivo dal punto di vista dell'Austria e della Francia, però, capito, cioè avevano pensato l'Europa come una cosa democratica, ma non sono riusciti a ma farla, per gli europei prima l'euro, per gli europei politica, cioè per la e adesso l'Europa si sta spaccando, vedrai che se l'Europa non crolla per l'euro, ma crolla per la questione più politica che c'è, e cioè il controllo delle proprie frontiere. Vabbè, però facciamo che per così. Alcuni versi è anche una cosa auspicabile, perché se non altro si ritorna a un minimo di contenuto etico. Tutti in giro, tutti senza frontiere. Vabbè, niente. E oggi gli appesa così. Tutti senza frontiere, gli europei. Niente. Gli europei senza frontiere. Ma non è che può venire uno, ma adesso dico dall'Eritrea sembro cattivo, ma anche dall'Australia. Non può venire un australiano e girare per Schengen così. Perché? Ma non l'ho deciso io, perché non è europeo. Capisci che dare questo tipo di risposta a un fenomeno come questo è quantomeno riduttivo. Cioè che uno si attacchi alla regola dicendomi con il trattato di Schengen Schengen non si può girare liberamente se non si è cittadini europei, punto, come risposta a dei flussi migratori di gente che viene qui comunque, che verrà lo stesso, che continuano a venire, che stanno arrivando in Friuli Venezia Giulia attraversando i Balcani, non è una soluzione. Vabbè. Quindi che noi continuiamo a parlarci addosso. Esatto, non parliamoci addosso. Andiamo altro. Aspetta, che devo dare il traffico. Poi devo far sentire anche J-Ax, un J-Ax in grande spolvero. Fibio Milan, manda il traffico in Italia, in Europa e nel mondo. Debusciato. 24 mattino. Col caffè nella tazza, saluto Milan e anche Meazza. Perché sempre code a portonaccio? Alessandro Milan, il sospiro sull'informazione. Ciao Alessandro Milan, stamattina mi sono svegliato incazzato, perché io lavoro e tutti i politici mangiano. E poi c'è un'altra cosa, caro Alessandro Milan, con i rom, devi arrabbiarti di più con i rom, sei troppo buono con i rom. Caro Alessandro Milan, qui al telefono hai il capo del partito dei coglioni. Dunque, io lavoro 240 ore al mese, ho un contratto farlocco, sono indietro di 5 mesi di stipendio e mi sono rotto i coglioni di stare a sentire tutte ste belinate sugli immigrati, sui politici e tutte ste cazzate che continuate a dire. Avete rotto i coglioni, punto. L'editoriale era preciso, Federico. No, era sottile, moderato. Sì, moderato. Beh, apprezzo anche la domanda esistenziale della signora che si chiede perché sempre code a portonaccio. Secondo me mancano le code a portonaccio. Sono le grandi domande esistenziali. Ecco, per esempio, chiudiamo questa vicenda con Enzo che ci dice: ma chi ha firmato per l'Italia il trattato di Dublino? Sapeva leggere? Non lo so. L'abbiamo insospettabile, hanno firmato. L'hanno anche approvato in Parlamento e quindi. Ma poi in molti hanno la memoria corta, no? C'è chi le cose le firma, poi se le dimentica e comincia a filosofeggiare che non andavano firmate. Esatto. Allora, su questa cosa Renzi ci si gioca la faccia e il risultato di Venezia c'entra qualcosa. Ah, è vero, sì, non abbiamo parlato delle elezioni. Ecco, infatti quella è un'altra storia complicata. A Venezia ha vinto il centrodestra, che devi dire? È la città più importante in cui si è votato, ha vinto Brugnaro nei confronti di Casson. Il Movimento 5 Stelle non l'abbiamo approvato in questo caso. In che senso? Non ho capito. Che le indicazioni di voto a volte vanno date. No, non ho capito. Cioè, no, che non hanno dato indicazioni di voto. Ah, che se il Movimento 5 Stelle avesse appoggiato Casson, tu dici avrebbero vinto. E in una situazione, non lo so, perché bisogna chiedersi anche una parte dell'apparato PD che non era, insomma, Casson non era proprio organico al nuovo assetto non PD. Non è proprio renziano, Casson. Non è proprio. Proprio per questa ragione, avendo grande simpatia, ma quanto appunto è stato detto i 5 Stelle nei confronti di Casson, uno dice non è necessario dare un'indicazione di voto. Talvolta invece lo è, secondo me. Ma tu sei del Movimento 5 Stelle, sei. Ogni volta rifacciamo così. Perché me c'è questo dubbio? No, Federico, non abbiamo capito. Ma Federico te l'ha detto prima. Per chi vota? Te l'ho detto se sei grillino, no? Se sei grillina, Veronica. No, prima no, hai fatto illazioni sui miei amici che non erano a manifestare. I tuoi amici. Ho capito, cioè chi voti? Chi voti No Expo? Non è un partito. Non voto No Expo perché non avrebbe senso. Quella roba lì, quella voti roba sell, lì. Iper sell voti, iper ultra sell voti. Diciamo che ho mantenuto il buon senso. Non voti è tanto... democrazia proletaria, DP. No, secondo voti. Me è un insospettabile dell'NCD. È una potrebbe sbatterti il telefono in faccia. Diciamo che sono diventata dell'NCD in funzione di Azzolini. No, allora dai, vi devo far sentire questo perché l'ho annunciata. Non si sa per chi vota Veronica Gentili e continua il mistero, ma prima o poi lo scopriremo. Ti metteremo la telecamera mentre andrai a votare nell'urna e quindi scopriremo. Faremo questa cosa così. Quante cose potete scoprire con la telecamera? Federico, sei vivo ancora? No, silenzio, Federico, non lo so, fai conduci tu. Hai perso l'accento francese improvvisamente. Mi sono ritrovato un attimo, ho sbandato sei in curva. Sei tornato tra noi, improvvisamente sei a Napoli tu. Ho sbandato in curva, un attimino. Comunque, la cosa di Venezia non è una roba da poco, fa bene, sì, Casson non era esattamente allineato. però sicuramente la gestione dei migranti ha pesato e ha pesato anche Mafia Capitale sicoramente, anche perché poi ricordate che a Venezia la giunta è crollata per la questione del MOSE, no? Degli appalti. Sì, certo, ma infatti anche il PD comunque, per quanto Orsoni fosse relativamente implicato rispetto a Galan, il PD inizia a pagarli questi ma guarda che infatti ci saranno delle reazioni e ci sono già sui giornali, però vi devo far sentire J-Ax, se no non faccio in tempo. La domanda è questa, cara Veronica: tu ti fai le canne, Veronica? Guarda, vorrei su questo dire di sì, perché sarebbe più personaggio, però no. Ma no, aspetta una. Allora, spegni un attimo la canna, senti J-Ax. Vai, fatto. Io non credo che noi saremo fra i primi a legalizzare un bel nulla, anche perché siamo un paese reazionario. Mi sembra assurdo che cose più dannose della marijuana siano legali e la marijuana no. Semplicemente questo. Ma zio, ma secondo te? Cioè, io mi devo fare blindare qui davanti, ovviamente. No, non fumo più, ma va, anni, lo faccio solo come il cine per spirito. Ha risposto come Veronica Gentile. No, zio, bella zio, bella zio. Ne abbiamo fatte, cioè, anni fa, dai, su. Ne abbiamo fatte tante, adesso vedrò di ricominciare, dai. Adesso vabbè, sondaggio veloce, manca 30 secondi. Tu, Veronica, legalizzeresti? Guarda, in realtà la questione è più controversa di quello che ti aspetti, per cui non ti attacco la filippica. Tendenzialmente sì, però credo che ci siano alcuni effetti collaterali che vanno monitorati. Questo lo dico essendo totalmente perdita della memoria, sbandamento. Credo che ci sia una lunga troppo simpatici stamattina. Credo che sulla distanza ci siano degli effetti collaterali, possano esserci se non altro a livello cerebrale, che andrebbero minimamente monitorati. Vedi che non è proprio DP, è mezza e mezza. Tu, Federico? Legalizza. Ma io di solito sono sempre a favore su queste cose della legalizzazione, perché è bene che uno sia responsabile delle sue scelte. C'è da dire che gli italiani, quando sono responsabili delle loro scelte, fanno sempre la scelta sbagliata. Quindi mi astengo su questa cosa, mi astengo. Tra l'altro, io nel salutarvi vi ricordo che oggi è il compleanno, Veronica, è il compleanno del Trattato di Dublino. Oggi è il compleanno. 7 anni fa, viva! Happy birthday al Trattato di Dublino, quello di cui abbiamo parlato. Vi devo salutare, Veronica Gentili, Federico Novella, grazie per essere stati con noi, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo pronti nella lettura dei giornali. Oggi avremo ospite due ex direttori, Giuliano Ferrara che è stato direttore del Foglio, Bruno Manfellotto che è stato direttore dell'Espresso. Parleremo di Roma, ma delle grane del governo, sicuramente anche un po' di immigrati. Parleremo di questo, insomma, dalle 8:15. Ora state con noi perché leggiamo appunto i quotidiani che trovate in edicola. Come di consueto, i giornali in questo lunedì 15 giugno, giorno in cui si apre la 111esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Vediamo un po' se ce la facciamo questa settimana. Allora, il Sole 24 Ore apre sulla riforma del condominio, i nodi di deleghe e spese. Questa è l'apertura dell'edizione del lunedì. Poi la questione ballottaggi è l'apertura del Corriere della Sera. Sicuramente Venezia è la città più importante dove si è votato. Vince il centrodestra con Luigi Brugnaro. Il PD perde anche Venezia. Questo è il titolo del Corriere della Sera. I democratici sconfitti anche ad Arezzo e Matera, vincono a Mantova e Lecco. Per Repubblica, PD nuova frenata, perduta Venezia, Renzi una sconfitta. Poi la vicenda immigrazione. La Stampa, migranti, scontro con Parigi, si lavora a un piano rimpatri. Per Il Messaggero, profughi, contromossa italiana. Il Secolo XIX, la Francia respinge l'Italia. Mentre il Fatto Quotidiano, edizione del lunedì, ha in prima pagina

Interplanet.it, servizi innovativi di telecomunicazioni nel Veneto. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8 e 19 minuti in punto, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, io non so se il sindaco di Roma, Ignazio Marino, reciti la parte del finto sicuro di sé, quando contestato in consiglio comunale mostra le dita a V col segno di vittoria, no? Avete presente l'immagine settimana scorsa? O quando partecipa sabato scorso a Roma Pride, a chi lo avvicina lo invita a tenere duro, risponde: è certo, mica riconsegneremo Roma ai puzzoni. Sentite come una settimana fa rispondeva Marino a Giovanni Floris a Di Martedì sulla possibilità di dimissioni. Ma insomma, mi sembrerebbe il mondo all'incontrario, Alice nel Paese delle Meraviglie. Il mondo all'incontrario sarebbe. In realtà ieri Renzi, Presidente del Consiglio, al Corriere della Sera dice: ho rispetto per Marino, ma non possiamo sottovalutare il messaggio che viene da Roma. Addirittura, secondo il Foglio, scriveva settimana scorsa, Renzi avrebbe già deciso. Marino va dimissionato, come si fa in queste cose, magari possibilmente in maniera gentile, che in politica vuol dire cercare di far pensare che il sindaco sia consenziente. In realtà non è così. Certo che oggi la commissione prefettizia consegna una relazione corposa, 1000 pagine, nelle mani del prefetto Gabrielli. È una commissione che ha studiato tutte le carte dell'amministrazione pubblica romana e ora Gabrielli avrà 45 giorni di tempo per decidere, o meglio dare dei consigli, se dire il suo parere al Ministero dell'Interno. E visto che l'inchiesta è stata chiamata Mafia Capitale, potrebbe addirittura arrivare alla proposta di dire: bisogna sciogliere Roma per mafia. Questa, tra l'altro, la versione della mafia, è un'opzione, una lettura che non è mai piaciuta a Giuliano Ferrara del Foglio, che saluto. Buongiorno Ferrara. Buongiorno. Perché non le è mai piaciuta questa versione della mafia? Ma per motivi di buon senso, perché hanno scoperto una rete corruttiva, come ce ne sono in molti comuni italiani, in molte regioni, nell'amministrazione pubblica, una rete corruttiva fatta di imprese, in questo caso le cooperative degli ex detenuti, una cooperativa presieduta da un ex ergastolano, che sfruttando, diciamo, le maglie della spesa pubblica assistenziale, della carità pubblica, fanno un po' di carità anche a se stessi, insomma, e quindi è una rete corruttiva, ma una rete corruttiva in cui c'è qualche connessione con la destra, qualche molta connessione con la sinistra, qualche connessione con personaggi così di una specie di sottomondo, di gravattari a Roma vuol dire usurai, eccetera, non significa mafia. La mafia sono famiglie, la mafia è una tradizione criminale inveterata, la mafia è violenza, la mafia è imposizione attraverso un meccanismo criminal politico molto chiaro, noto, insomma, la mafia è quella roba lì. Invece è corruzione, il padrino, corruzione. Non Buzzi. Qui invece è corruzione, insomma, corruzione a vari livelli. Corruzione, certo, corruzione, evidente. Se tu prendi 5.000 euro al mese per fare gli interessi di un imprenditore mentre sei un pubblico ufficiale, sei un corrotto. Però questa sembra quasi una questione ormai di lana caprina, anche se è una questione sostanziale. La questione principale politica è: Marino può rimanere al suo posto? Al Foglio dite che ormai Renzi ha deciso. Non è di lana caprina, perché i magistrati agiscono in supplenza del potere politico, e naturalmente io mi sto ubriacando di prima mattina, perché a Casson questo a Venezia non è riuscito, quindi non tutte le ciambelle vengono con il buco. I magistrati operano in supplenza, e se usano lo strumento dell'imputazione di mafia per fare il bello e il cattivo tempo e per sconvolgere anche la fisionomia di diritto di un'inchiesta, fanno un'azione cattiva verso la loro vocazione istituzionale, quindi non è di lana caprina. Marino è politicamente molto debole, evidente, ma lo era anche prima dell'inchiesta. Marino è un sindaco un po' rimediato, che agita spesso il proprio mito, appunto fa il segno della vittoria come Churchill, ha un'altissima considerazione di sé, che non si riflette in un'altrettanto alta considerazione da parte, non dico dei romani, perché il popolo è sempre un po' pazzo e potrebbe anche innamorarsi di Marino, ma insomma i romani con la testa sulle spalle, ecco, che vedono che lui è un bravo guaglione, ma certo non mi pare che abbia in mano la capacità di gestire, guidare politicamente una città di molti milioni di abitanti. Infatti il Foglio lo ha scritto, Renzi avrebbe già deciso dopo le vacanze. Intanto Ferrara, voglio presentare e salutare anche Bruno Manfellotto, che è stato direttore dell'Espresso, firma il prestigioso dell'Espresso. Buongiorno Manfellotto. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a Ferrara. E anche l'Espresso ha detto nell'ultimo numero in pratica che Marino non può più restare lì in quel posto. Perché le ha scritto Manfellotto che le ricorda tutto ciò il sacco di Roma? No, io non ho scritto questo, l'ha scritto l'Espresso, il giornale che ospita le mie opinioni. Io invece penso che farlo in questo momento, chiedere le dimissioni in questo momento di Marino, sarebbe abbastanza folle per varie ragioni. La ragione politica non la spiego nemmeno, perché è ovvio che per il PD fare una scelta del genere sarebbe una scelta in questo momento molto difficile, perché rischierebbe di consegnare quel poco che resta di Roma e del Campidoglio agli avversari politici, perché significherebbe in qualche modo sancire una responsabilità anche del sindaco Marino. Io penso invece che il sindaco Marino come sindaco si sia un po' presentato e comportato, diciamo così, alla Forrest Gump, cioè un signore che fa finta di stare lì in un mondo che non conosce, eccetera. Ma per quello che riguarda le questioni più direttamente corruttive della città, qualche cosa ha fatto, perché onestamente riuscire a chiudere la famosa discarica di Malagrotta, per chi non è di Roma non si può rendere conto di cosa significhi, ma diciamo che è un po' la sentina di tutti i vizi degli ultimi anni. Bloccare gli appalti diretti, che prima facevano la gioia, la fortuna di imprenditori, siano essi in odore di mafia oppure no, mandare via il capo dell'AMA Panzironi, chiamare la finanza in alcuni uffici, liberarsi di quel signore Coratti, sì, che gli pagò dei soldi per una cena in cui si raccolgono fondi elettorali, eccetera, eccetera. Insomma, qualche cosina. Ma come dice Marino, abbiamo mandato via i cattivi. Insomma, non li ha mandati tutti via ancora, perché poi tra l'altro la caratteristica, diciamo, di questa inchiesta, poi sulla questione mafiosa, in alcune cose Giuliano ha perfettamente ragione, perché la mafia è una cosa un po' diversa. Diciamo che secondo quello che leggo, insomma, quello che dicono i magistrati, i metodi di ricatto e di intimidazione sono mafiosi, e quello che ci sarebbe dietro questo movimento è qualcosa di più robusto di qualche singolo, almeno secondo le accuse, poi vedremo che cosa succederà dopo. La cosa però che mi colpisce un po' di più è che rispetto ad altre mille tangentopoli che abbiamo visto in questi anni, sembrerebbe che nel caso di Roma questa corruzione sia molto più diffusa nella macchina pubblica, cioè nella macchina comunale, nella macchina degli uffici, e che tocca tutto, perché tocca le cooperative, i centri che riguardano per l'accoglienza dei profughi, e l'amministrazione e il consiglio comunale. Frasi come quelle che si dicono Carminati e Buzzi a proposito di uno dei dirigenti restii ad accogliere l'invito illegale, diciamo così, dice va bene, o lo compri o lo cacci. Vabbè, la corruzione è diffusa, questa almeno. La corruzione diffusa è anche un potere di nomina e di revoca di questi signori che è un po' più raffinato, diciamo così, tra virgolette, rispetto a quello che abbiamo visto. Io vorrei capire, Giuliano Ferrara, ma quanto politicamente, secondo lei, incide in questo momento sulla tenuta del governo Renzi questa vicenda di Roma? Perché Roma capitale poi è la città più importante. Si dice Renzi non può andare alle elezioni perché rischierebbe di consegnare al Movimento 5 Stelle una città come Roma. Guardi Milan, secondo me non è un problema locale. L'Italia non sopporta di essere governata, e l'idea, l'Italia come sistema mediatico, come sistema malato da vent'anni e più di giustizia politicizzata, l'Italia in cui appunto c'è questa supplenza dei magistrati, come ha detto nel suo bellissimo libro Il magistrato di sinistra, Piero Toni, persona molto seria, un libro di Einaudi che bisognerebbe tutti leggere, questa Italia qui non accetta che che ci sia una nuova direzione di marcia. Dice, ma ti abbiamo preso un quarantenne, un trentanovenne, ci sono le ministre che sono giovani e carine, c'è un salto generazionale, non ci sono più i vecchi capi bastone, niente, niente da fare. In Italia scattano questi meccanismi vari di corrosione di qualunque progetto politico, è successo sempre, è successo con Fanfani tanti anni fa, questo per i meno giovani, è successo con Craxi, è successo con Berlusconi, che pure era un uomo molto caotico, è un uomo molto caotico, però insomma un progetto ce l'aveva, idee diciamo al servizio delle quali ha messo il suo carisma e anche le sue follie ce le aveva. Ogni volta che c'è un tentativo di stabilizzazione nasce questa malmostosità italiana che tende a corrodere. Allora, uno scandalo, tra virgolette, ordinario di corruzione nella pubblica amministrazione a Roma, invece di portare in una dimensione molto meno apocalittica di quella che gli danno oggi i giornali e le televisioni, appunto a degli arresti, poi a delle incriminazioni, possibilmente di persone non detenute in custodia cautelare nelle carceri speciali come se fossero dei vina, invece di portare a degli arresti, a delle incriminazioni e a un processo, nasce con l'annuncio del procuratore capo di Roma a un convegno del PD, dice fra poco vedrete quello che succede con gli arresti eccetera eccetera, quindi nasce politicamente, diventa un fatto mediatico e appunto Milan un fatto nazionale, diventa un fatto nazionale di rimente, capito? Allora è il momento degli scrittori, dei Saviano, tutti i tuttologi cominciano a operare . E allora una volta il Mose, una volta il Roma, una volta il Sesto San Giovanni eccetera, noi veniamo afflitti da questa continua tendenza a tirare giù il paese. Quel titolo del Sacco di Roma che citava l'Espresso era proprio così: capitale corrotta, nazione infetta. L'Espresso fa il suo mestiere come titolare diciamo del marchio perché tantissimi anni fa, decenni fa, fece una famosa grande inchiesta sul Sacco di Roma, ma quello riguardava il Vaticano, i preti, le proprietà immobiliari, riguardava l'Italia concordataria, era una battaglia laica e anticlericale, fietta, era una cosa che aveva una sua giustificazione ed era una campagna di stampa, non era, c'era il Porto delle Nebbie allora, sì. Le inchieste non arrivavano mai a conclusione. Adesso è tutto diverso, è tutto più normale e noi lo trasformiamo in apocalissi, perché non ci piace l'idea, a Renzi non va bene, ce l'ha coi gufi, è troppo veloce, troppo rapido, parla prima di aver pensato, ma Renzi è criticabile, ma l'idea che ci sia un governo che cerca di far ripartire l'Italia secondo me dovrebbe essere trattata con un pochino più di attenzione. So, Manfellotto, qui la questione è di questo. Devo parlare per fatto personale. Sì, dica. No, per carità, no, dicevo. Io proprio in questi giorni mi sono andato naturalmente a rileggere l'inchiesta di Manlio Cancogni per l'Espresso, ma lì il meccanismo era che l'Espresso scopriva, mettendo sul banco degli imputati la generale immobiliare e i suoi legami con il Vaticano e con la nobiltà nera romana eccetera eccetera. Il meccanismo lì era ancora il meccanismo, come lo vogliamo chiamare, preistorico, no? Cioè lì ci sono degli imprenditori che vogliono costruire le case, ci sono dei consiglieri comunali o assessori o sindaci, a seconda dei casi, che sistemano le delibere in modo che la concessione vada a questo invece che a quell'altro, ricevendone in cambio favori di vario genere, quindi siamo nel meccanismo più normale possibile. Le cose che sono successe negli anni successivi, che sembra manifestare il caso di Roma, è ancora più complicato o più strutturato, nel senso che questa c'è una criminalità che utilizza certi imprenditori e sceglie certi consiglieri comunali e certi funzionari comunali per sistemare tutte le cose e buttarsi su tutti i vari affari che ci sono. Quindi c'è certamente un salto di qualità. Poi volevo aggiungere una cosa, perché Giuliano come sempre dice cose intelligenti e fondate, ma spesso poi è amante com'è del paradosso, poi secondo me esagera. Cioè, cosa voglio dire? Dico che perché adesso non si sopporta più questo tasso di corruttela, mentre prima gli italiani poi alla fine chiudevano un occhio, sembravano più sopportabili? Perché non ci sono più soldi. Cioè, la prima Tangentopoli perché è emersa? È emersa perché alcuni imprenditori pagavano dei soldi a ministri e parlamentari, e non ne avevano in cambio degli appalti, perché erano finiti i soldi pubblici. Oggi succede che non si trova più lavoro, mentre invece lo trovano tutti i figli, i cugini e i cognati. La gente è arrabbiata, non l'accetta più perché è arrabbiata. La spesa pubblica non è, i servizi vengono tagliati, bisogna trovare i soldi per i Rom e non ci sono quelli per gli ospedali. La gente non sopporta più questa cosa, cioè anche un euro sprecato non viene più accettato. E quindi alla fine questo aggrava la situazione. Devo però concludere, vorrei da Giuliano Ferrara però una battuta conclusiva su questo tema. È davvero questa la questione politica centrale in questo momento, oppure la vicenda migranti, sulla quale anche lei oggi scrive sul Foglio, è prepotentemente più importante, si impone sull'agenda pubblica? Perché qui sulla questione dei migranti l'Italia come la vede? Sta balbettando oppure no? Sì, la questione dei migranti è enorme anche quella, ma è anche quella da mettere in questo calderone. Io risponderei a Manfellotto rapidissimamente dicendo: la differenza la fanno le intercettazioni. Quando l'Espresso scopriva gli scandali veri e grandi della capitale infetta, nazione corrotta, anzi capitale corrotta, nazione infetta, non c'era l'apocalisse mediatica. Quindi la gente era anche meno incazzata, pensava che le cose importanti fossero quelle che diceva Luca Ricolfi ieri nel fondo del Sole 24 Ore, l'economia, perché vabbè, l'immigrazione d'accordo, poi si scopre che in Germania ci sono 10 volte i rifugiati che ci sono in Italia, la scabbia d'accordo, però la scabbia si cura con una pillola monodose e poi non è detto che ci sia questa epidemia, è un falso allarme di quelli da demagoghi irresponsabili. Comunque, certo, lo spettacolo delle stazioni invase dai profughi è una cosa che allarma l'opinione pubblica, non c'è dubbio, però la vera questione è che sta ripartendo forse la creazione di lavoro e di ricchezza e forse ci andremo un pochino meno veloci, meno rapidi nell'estensione della sfera pubblica caritatevole che si è visto è una grande greppia per corrotti. Allora, io ringrazio Giuliano Ferrara e Bruno Manfellotto per essere stati con noi. Tra l'altro, dopo la pubblicità avremo il sindaco di Ventimiglia, uno dei paesi e delle città di frontiera, è proprio il caso di dire, soprattutto nello scontro con la Francia, perché la Francia dice non è vero che abbiamo interrotto e sospeso il trattato di Schengen, tutti sono liberi di circolare, tutti coloro che sono all'interno del trattato di Schengen, quindi cittadini europei, non certo i cittadini extracomunitari. Dalla posizione del sindaco di Ventimiglia vedremo che succede. State ascoltando un programma offerto da Fujitsu World Tour 23 giugno Milano. Partecipa anche tu. Allora, 800 24 00 24, se volete parliamo un po' di immigrazione, migranti, dite la vostra, chiamateci. Intanto sentirei Pierluigi da Latina, che invece ci chiama sul tema di Roma, credo. Buongiorno Pierluigi. Sì. Buongiorno. Dica. Sì, volevo dire due cose essenziali essenzialmente. Sul discorso di Marino non sono d'accordo sulle sue ipotetiche dimissioni, perché secondo me la corruzione deriva solo ed esclusivamente dalla discrezionalità dei dirigenti. Togliamo la discrezionalità dei reggenti e la corruzione diminuirà moltissimo. Seconda cosa, sempre su questo argomento, volevo segnalare che secondo me non viene approfondito. Però sa, i dirigenti, sa, c'erano anche dei politici, almeno delle intercettazioni, che venivano sentiti, che venivano pagati. La possibilità, no? Di fare le assegnazioni dirette lo fanno i dirigenti. No, questo sì, però capisce, i politici che venivano direttamente a libro paga dei... Sì, no? I politici lo possono questa fare, secondo l'accusa, ma sembra lo possono fare grazie a un meccanismo, diciamo, che consente discrezionalità. Allora togliamo la discrezionalità anche ai politici, vabbè. E a quel punto, cioè, le gare d'appalto non possono essere devono avere dei criteri ben precisi, in modo tale cosa che dovrebbero avere, a parte le assegnazioni dirette. Esattamente. Sul discorso invece sempre di Mafia Capitale, un piccolo aspetto che secondo me non è adeguatamente approfondito è il fatto che c'è nel mondo cooperativistico c'è una parte sicuramente minoritaria che non sono assolutamente cooperative, formalmente sono perfette, sostanzialmente non sono assolutamente cooperative e muovono un sacco di soldi. Certo. Va bene, la ringrazio Pierluigi da Latina per questo suo contributo. Allora, come detto, parliamo un po' di immigrazione. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. La situazione ovviamente ci vede soprattutto con la Francia in grande contrasto, perché ci sono situazioni di immigrati che stanno soprattutto a Ventimiglia, vorrebbero andare in Francia ma vengono respinti dalla Francia. Per la verità la Francia dice: noi non abbiamo mai sospeso il trattato di Schengen. Allora io vorrei capire com'è la situazione pratica dal sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano del Partito Democratico, sindaco che è con noi. Buongiorno sindaco e grazie. Buongiorno. Allora intanto la situazione immagino ce la descriva da primo cittadino, è davvero così difficile nella città di confine? Ma guarda, è stato difficile nei giorni scorsi, adesso siamo riusciti anche grazie alla prefettura e alla questura, alle associazioni di volontariato, a riuscire a dare un aspetto più congruo, diciamo, una situazione di questo tipo qua. Abbiamo due fronti, uno è quello al confine, un altro è quello nella zona della stazione, però è tutto sotto. Ma perché sotto abbiamo visto questi migranti sugli scogli, dove sono esattamente? Esattamente sono sulla linea di confine, sono a 2 metri dalla linea di confine. E sono lì ancora? Sono ancora lì, sì, sono ancora lì. La parte, possiamo chiamarli così, sono quelli che quantomeno contestano e ci dicono. Insomma, la testimonianza che hanno avuto anche i volontari della Croce Rossa, con cui parlano più apertamente, perché insomma non è qualche giorno che hanno un rapporto, no? Insomma, dicono di essere stati prelevati in Francia e riportati in Italia. Alcuni di loro erano muniti del biglietto Nizza Parigi. Sì, ecco, lei ieri ha detto che questa cosa è una cosa grave, però dalla Francia dicono: noi non abbiamo sospeso il trattato di Schengen, che prevede la libera circolazione per chi è cittadino europeo, ma proprio qui sta l'inghippo, dice la Francia: chiunque rientri in Schengen può muoversi liberamente, un cittadino invece eritreo o comunque extracomunitario non è tutelato dalla libera circolazione di Schengen. Dunque, chi ha ragione, sindaco? Guardi, io sinceramente non voglio entrare nei dettagli dei vari trattati internazionali, perché assolutamente non è il mio compito. Rimane il fatto che comunque vada un blocco così unilaterale, senza nessun tipo di contatto col governo italiano, crea delle situazioni di disagio gravi per una città che, seppur di confine, deve affrontare, una città di 26.000 abitanti che deve affrontare un'emergenza di questo tipo. Per fortuna, con responsabilità e un po' di senso di umanità, abbiamo messo sotto controllo la situazione. Beh, sotto controllo, perché dice ce li teniamo noi e li gestiamo. Da parte della Francia c'è sempre, mi pare, chiusura totale, no? Sì, in questo momento sì, però lei tenga conto del fatto che più o meno questi flussi vanno avanti da più di un mese. E i flussi sono stati regolari in numeri molto ridotti, parliamo di 30, 40, 50 persone. Ovvio è che nel momento in cui rafforzano i controlli si crea una sorta di tappa. Io credo che un minimo di passaggio, una spicciolata per altri valici ci sia. Rimane il fatto comunque che è un atteggiamento non congruo ai rapporti diplomatici e cordiali come dovrebbero essere con uno stato amico che è l'Italia. Però sindaco, io prima ho detto anche questa frase che mi ha attirato ovviamente molti strali, ma non importa, cioè: se fossi francese mi comporterei come i francesi. Cioè si metta nei panni dei francesi, arriva una persona, mettiamo di nazionalità eritrea, che è dal punto di vista dei documenti irregolare, perché non si sa in questo momento se ha diritto allo status di profugo, di rifugiato, e quindi la Francia dice: noi non lo facciamo passare perché non sappiamo chi è. È una posizione così sbagliata? Ma è una posizione che potrebbe essere anche congrua se non fossimo nell'Unione Europea, ma siccome siamo nell'Unione Europea e ci legano comunque dei legami, dei rapporti, dei trattati, allora o si stabiliscono quali sono oppure non serve a nulla l'Unione Europea. E però quel cittadino non è europeo, questo voglio dire. Sì, ho capito, ma noi sì, e io vivo a fianco a loro, tutti i giorni abbiamo rapporti commerciali e buona parte dei miei residenti, dei miei cittadini vive, lavora e sta in Francia, rapporti con la Francia, ma visto che questi rapporti ci sono, e non da ieri ma da anni, non è che poi possiamo svegliarci da un giorno all'altro, bloccare le frontiere senza dire nulla prima al governo italiano. Questo è fuori da ogni logica di Unione Europea. Io posso capire il discorso che mi fa lei e posso anche essere d'accordo in parte, no? Dice, ma questi arrivano senza documenti, senza niente, va bene, ha una logica, ma i rapporti cordiali dovrebbero. Lei me lo dice, ma è chiaro. Sindaco, per concludere, lei ha sentito qualcuno del governo, ha voglia di lanciare un appello magari al Presidente del Consiglio del suo stesso partito dire... Guardi, noi abbiamo avuto rapporti costanti in questi giorni con il Ministro Pinotti, Ministro della Difesa. Essendo lei ligure, quotidianamente ci contatta, ci coinvolge per sapere com'è la situazione monitorata. Io non devo lanciare appelli al governo, io ho lanciato un appello giorni fa sull'organizzazione dell'emergenza, sulla gestione dell'emergenza, nel senso che a un certo punto ci siamo trovati, tra virgolette, dover fronteggiare una situazione che con le risorse che avevamo noi non erano sufficienti. Detto questo, ci si è lavorato, si è raggiunto un grado sufficiente di equilibrio. A questo punto, insomma, il governo credo sappia benissimo cosa fare, anche perché insomma abbiamo avuto i contatti col Viminale, con il capo della polizia Panza, il prefetto di Imperia, si sta dando molto da fare, quindi insomma La situazione è un po' più sotto controllo, anche se ovviamente poi capire, tutti i giornali raccontano di questo famoso piano B che avrebbe in mente Renzi, annunciato in un'intervista ieri al Corriere della Sera, anche se non è entrato nei dettagli. Si tratta di capire, questo piano B, almeno descritto dai giornali, viene definito così: dare per esempio dei permessi di soggiorno temporanei a questi migranti, in modo che col permesso temporaneo possono circolare liberamente nel trattato di Schengen e quindi francesi o austriaci non li possono fermare. Intanto io la ringrazio, il sindaco di Ventimiglia, lo ricordo, Enrico Ioculano del Partito Democratico, perché lì la situazione è un po' più complicata. Al traffico poi qualche ascoltatore. Dice il Corriere che Renzi ha un piano B, questo l'ha detto Renzi ieri al Corriere, oggi tutti a chiedersi quale sarà questo piano B. Secondo alcuni, addirittura un retroscena di Repubblica, Renzi sarebbe pronto a dire all'Unione Europea: non paghiamo più le quote dell'Italia, 6 miliardi di euro, ma questa è la versione più da bomba atomica. In realtà pare che Renzi voglia fare accordi con alcuni paesi africani per rispedirli indietro, accordi con alcuni paesi europei per attaccare gli scafisti in Libia, magari coinvolgendo l'Egitto, oppure dare permessi temporanei a questi migranti, di modo che con i permessi temporanei non si può più verificare come in Francia, che li respingono. Comunque, Federico da Latina, buongiorno. Staremo a vedere questo piano B. Federico, buongiorno, ci sente? No, buongiorno, andiamo... sì, mi dica. Sento. Allora, io volevo intervenire sulla questione degli immigrati. Sì. Io dal 1999 sì. ospito prima una signora e successivamente i suoi figlioli, tre sì. maschi bellissimi, intelligenti, nigeriani, corretti, perfetti, si mettono sull'attenti quando sugli autobus sale un vecchio. Vabbè, adesso. E gente di prima qualità, mi trovo benissimo. Vabbè, La mia domanda è di storia più profonda. Sì. Per 300 o 400 anni, inglesi e francesi, per non dire anche gli altri, hanno invaso Asia ed Africa senza permesso di soggiorno, sì. hanno aggredito l'etnia Zulu, hanno aggredito l'impero Kano per portare via schiavi, materie prime, roba da mangiare e petrolio. Però Federico, ora non hanno più posto. Non facciamo la storia, cioè lei dice sì, si può fare, però non siamo in un convegno. No, che può... dire ancora un'altra cosa, in Italia si vendono piccole casette a un euro ciascuna, ma una famiglia di immigrati non può rimetterla a posto, c'è tanto a posto in Italia, sono bugie, è un fatto politico. Va bene Federico, questa è la sua opinione, la ringrazio. Andrea Milano da Vincenzo, buongiorno. Vincenzo? Niente. Valerio dalla provincia di Varese, ma perché chiamate e poi vi distraete a fare altre cose? Valerio dalla buongiorno provincia di Varese, tutti. Buongiorno a tutti, ciao, sono Valerio. Il mio contributo voleva... sottolineare una cosa molto importante secondo me: gli italiani sì. non sono razzisti, gli italiani sono fin troppo ospitali, lo hanno dimostrato durante la storia, solo che l'italiano diventa fortemente intollerante quando è davanti a delinquenti, indolenti, clandestini, e questo secondo me bisogna sempre sottolineare. Tutti quelli che sono arrivati appartengono a una di queste categorie che lei cita, come fa no, a saperlo? Non ho detto questo. No, chiedevo infatti una domanda. Non ho detto questo, ho detto che l'italiano diventa intollerante quando si trova davanti a delinquenti, indolenti, clandestini. Sì. Perché invece altre etnie si sono sapute integrare benissimo, andiamo a mangiare nei loro ristoranti, li facciamo aggiustare i nostri telefoni, i cinesi. sono la dimostrazione di come ci si può inserire in un tessuto sociale benissimo e avendo il rispetto di noi italiani. Vabbè, siamo loro amici. Quindi è una questione, però, ma lei dice della provenienza geografica da cui vengono l'immigrazione. No, neanche. Beh, insomma, questo ha detto, cioè dai, coi cinesi ci comportiamo. Ci sono alcune etnie. Sì, è quello, che all'interno hanno questi delinquenti. E vede che sta dicendo la stessa cosa. Clandestini. Dice, e questo ho detto, ho ripetuto le sue parole, cioè dipende secondo lei anche dalla provenienza geografica e dalle etnie che sono protagoniste delle ondate migratorie. Va bene, grazie Valerio. Che dire, chiudiamo qui, beh, non prima di avervi fatto sentire però come di consueto la nostra segreteria telefonica, la segreteria che risponde al numero 0246524492. Col caffè nella tazza saluto Milan e anche Meazza. Perché sempre code a portonaccio? Alessandro Milan, il sospiro sull'informazione. Ciao Alessandro Milan, stamattina mi sono svegliato incazzato perché io lavoro e tutti i politici mangiano. E poi c'è un'altra cosa, caro Alessandro Milan, con i rom, devi arrabbiarti di più con i rom, sei troppo buono con i rom. Caro Alessandro Milan, qui al telefono hai il capo del partito dei coglioni. Dunque, io lavoro 240 ore al mese, ho un contratto farlocco, sono indietro di 5 mesi di stipendio e mi sono rotto i coglioni di stare a sentire tutte ste belinate sugli immigrati, sui politici e tutte ste cazzate che continuate a dire. Avete rotto i coglioni, punto. Abbastanza chiaro nella sua opinione, la ringrazio. Segreteria telefonica 0246524492, potete dire quello che volete, come avete sentito, con Alessandro Longone, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, insieme a Carmelo Lauricella in regia, che sarà qui anche domani, sbrandato anche domani alle 5. Bene, con molto piacere, ci ritroviamo domani 6:30 puntuali.